C è un'esaltata frenesia in cerca di pace. La pace a tutti i costi. La pace comunque. Tutto deve essere svolto senza aggressività, con amorevolezza e mitezza, tendendo al massimo obiettivo che impera nelle svariate parti del mondo da mezzo secolo, cioè il colloquio, il confronto, il dialogo. Dialogo. Dialogare. Sembra che solo a sentir pronunciare queste due parole crei un'atmosfera di serenità e di pace. Per questo non si parla d'altro che della necessità di mettersi a confronto per risolvere qualsiasi contrasto, sia personale sia mondiale. Perciò ogni ragionamento tendente a qualsiasi tipo di violenza viene rifiutato, se non addirittura ritenuto come spregevole e irrazionale. Si deve cercare sempre un accordo, si dice, e ogni tipo di aggressività e di violenza è barbara se non una mancanza di amore. L'importante è la pace, l'importante è il dialogo. La violenza non può esistere in un paese dove regna la democrazia, la civiltà e il buon senso. Apparentemente queste opinioni non hanno nulla di male, perché cercare la pace, la concordia e bandire la violenza sono obiettivi avvincenti, buoni e utili alla società e al vivere comune, ma nascondono anche un insano e ipocrita desiderio che deve essere messo in evidenza. Innanzitutto non è assolutamente vero che l'esistenza dell'uomo sulla Terra, per essere normale e giusta, debba essere esente da ogni tipo di violenza. L'uomo è violento più di quello che pensa, e non solo nel modo sbagliato, ma soprattutto in ciò che è giusto. Prendiamo ad esempio come l'uomo si relaziona con gli animali. Non è forse un atto di violenza costringere un volatile, nato per svolazzare nel creato, a vivere in una gabbia per il proprio piacere individuale? Non è forse un atto di violenza nei confronti degli animali tenerli in casa quando devono vivere all'aria aperta? Ho presente un uomo che tiene due cani in casa. Vero che passeggio con loro con un guinzaglio doppio, ma non li ho mai visti liberi di correre, non li ho mai sentiti abbaiare, perché se lo fanno sono guai per loro. E che dire degli animali che sono nel circo? Noi ci divertiamo nel vederli correre, saltare, fermarsi, alzarsi su due zampe all'ordine del domatore, ma chi pensa che per loro è una violenza contro natura? E i poveri pesciolini che vivono nelle bocce o in piccoli stagni di acqua per il piacere degli uomini? Personalmente sono senza parole alla violenza che vengono fatte a certe galline costrette a stare in uno spazio grande poco più del loro corpo, con la testa fuori per poter mangiare e il di dietro fisso perché l'uovo possa cadere in un nastro trasportatore. Che bestialità, che crudeltà, eppure nessuno apre il becco, nessuna marcia pubblica per evitare queste violenze. Quando ci è di mezzo il dio denaro, tutti dobbiamo adorarlo e assecondarlo. Mi si dirà che questi sono animali, e poiché non si può dialogare con loro, occorre agire contrastandoli con violenza, ma purtroppo l'uomo tratta il suo simile nello stesso modo, anche se ci è la possibilità di intendersi. Coloro che partecipano alla marcia della pace, coloro che sono contro ogni forma di violenza, perché non condannano la forza dell'ordine quando con il manganello cerca di calmare la violenza ingiusta della folla negli stadi? È forse una cosa buona o un bello spettacolo vedere usare un manganello per mantenere la pace e l'ordine? Coloro che condannano ogni forma di violenza, perché non elevano la loro voce per condannare la violenza di queste autorità? Si dirà che questo è giusto perché diversamente ci sarebbero delle gravi conseguenze per il pubblico. E se è giusta la violenza della forza dell'ordine, perché ritenere ogni forma di violenza illecita? Se in certi casi occorre rispondere alla violenza con la violenza, perché allora ritenere ogni forma di guerra un errore? Se questo ha lo scopo di mantenere l'ordine. Purtroppo chi è a favore della pace, e solo della pace, spesso nasconde idee politiche di parte. Ho ancora presente una conversazione fatta con mia madre, la quale condannava senza nessuna scusante la guerra di una certa nazione contro un'altra. Le feci notare che anche un'altra nazione commetteva lo stesso errore, e lei di rimando senza tanto pensarci mi disse: avranno le loro ragioni. E forse onestà intellettuale condannare la violenza, la guerra, l'ostruzionismo, l'aggressività, solo in certi casi? Se invece l'aggressività e la violenza a volte diventano necessarie e giuste, perché fare una marcia della pace quando a volte la pace non è necessaria e non è giusta? Anche un dittatore produce una certa pace nel paese che governa, ma è la pace di un solo uomo e non di una nazione intera. E se la violenza è sempre ingiusta, cosa dire di un genitore che impone al figlio delle regole e certi comportamenti? E forse violenza ingiusta? Obbligare un figlio ad andare a scuola? E forse violenza ingiusta quando lo Stato impone di portare le cinture di sicurezza in macchina? Tutte le leggi hanno una loro violenza perché impongono all'uomo cose che in genere l'uomo non vorrebbe, ma senza questa aggressività come si potrebbe vivere? Perché allora proclamare la pace e solo la pace quando questo non è possibile e nessuno la mette in pratica in senso assoluto? Non viene forse il dubbio che questa tendenza di voler la pace in ogni maniera nasconda qualcosa? Non è possibile trattare il tema della violenza senza parlare della pena di morte. Dobbiamo rimarcare che la pena di morte, come legge sociale, non è un'invenzione dell'uomo, ma essa è nata da un ordine preciso di Dio. Proprio perché Egli è il datore e il protettore della vita, ha il diritto di decretare anche la morte di chi disubbidisce alla sua legge. Ma evidentemente il principio non è così chiaro a tutti, perché vanno moltiplicandosi le iniziative per abolire dai codici penali delle nazioni questa pratica. Da tempo è nata un'associazione contro la pena di morte, di nome Nessuno Tocchi Caino, e i giornali sensibilizzano la coscienza dei cittadini con articoli contro la pena di morte. Ecco alcuni commenti a riguardo. La pena di morte offende la coscienza di ogni cittadino. Non è accettabile in una società come la nostra. Oppure la pena di morte è l'estremo ricorso alla violenza degli stati deboli. Proprio per questo è stato detto che prima della fine del secolo la pena di morte deve essere bandita dai paesi civili e basati su valori cristiani. Risulta chiaro che per alcuni, sia cristiani sia non cristiani, la pena di morte non si concilia, per i primi con il messaggio del Vangelo e quindi con i principi cristiani, per gli altri con la morale. Eppure, anche se non tutti lo sanno, sulla testa degli italiani pende ancora oggi una doppia pena di morte, una politica e una religiosa. Quella politica è prevista in tempo di guerra dal codice penale militare, quella religiosa arriva dal cattolicesimo. Nel documento ufficiale e testo di fede, Catechismo della Chiesa Cattolica, viene dichiarato licita la pena di morte. In esso leggiamo: l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, in casi di estrema gravità, la pena di morte. Paragrafo 2266, pag. 557, anno 1992. Chi è contrario ad ogni forma di violenza come la pena di morte, perché non fa una marcia delle pace contro il codice penale militare e il cattolicesimo romano? Inoltre, vi è un'altra pena di morte che pende sulla testa degli uomini, la voce del popolo. Negli anni caldi del terrorismo, sondaggi attendibili hanno dichiarato che oltre il 60% degli italiani volevano la pena capitale. Perciò basta una scintilla al momento opportuno per provocare la pena di morte in uno Stato. La storia passata e recente ce lo insegna. Se uno Stato non mette la pena di morte per il reo confesso di crimini che Dio ha stabilito, punibili, la pace che reca è fittizia. E se non è applicata per ragioni giuste, prima o poi la società la applicherà per motivi contrari alla volontà di Dio. Non è possibile eliminare totalmente ogni forma di violenza. Per la festa della liberazione in Italia, il 25 aprile, ho letto un interessante slogan che fa riflettere. La pace si ottiene con la resistenza. E così, in mezzo ad un coro di voler la pace, sempre la pace, comunque la pace, gli italiani riconoscono che a volte è necessaria la violenza, e soprattutto quando ci è l'ingiustizia, Qualcuno giustamente ha detto: perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. E perché il male non trionfi? Chi più di un cristiano ama ciò che è giusto e buono? Perciò, finché esistono persone che amano la giustizia, queste non potranno andare d'accordo con chi ama il male. La parola di Dio lo ha sempre dichiarato. Proverbi 28, 4. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro guerra. Fra il giusto e l'iniquo vi è sempre stata incompatibilità. Come può andare d'accordo il giusto con chi ha un cammino ingiusto non equo? E se non si vuole tirare in ballo il discorso religioso, è sufficiente osservare il comportamento della società. Anche se tutti abbiamo un disperato bisogno di pace e di tranquillità, perché lo Stato combatte contro certi uomini quali i pedofili, gli assassini, gli stupratori, i spacciatori di droga? Perché si è fortemente contro il terrorismo? Non sarebbe meglio lasciar correre per amor di pace? Questo non è possibile, perché se si vuole vivere in una società con la pace e la serenità occorre essere nemici e fare violenza a chi non vuole la pace e la sicurezza con il confronto. Se questo metodo è accettabile in una società democratica, perché non accettare questo principio nel campo di Dio? Com'è possibile che chi professa Gesù come l'unica persona alla quale rivolge le preghiere per ottenere la vita eterna possa andare d'accordo con chi prega Maria e i santi? Con chi crede che occorre essere buoni per andare in cielo o che sia necessario osservare con onestà la propria religione per essere salvati? Ecco perché la Scrittura afferma che chi osserva la legge fa guerra a chi non la osserva. Fare la guerra non è tanto avversione verso qualcuno perché le armi del cristiano sono spirituali, ma avversione verso ciò che Dio disapprova. Se Dio disapprova l'uomo malvagio e l'ingiustizia, come può approvarlo il credente? Così, pur amando più di qualunque moralista o religioso la pace e il dialogo, pur odiando fortemente ogni violenza ingiusta, stupida, ingiustificata, volta solo a sfogare i propri bassi istinti, il credente si trova costretto ad essere in disaccordo con chi compie il male e fargli opposizione. Purtroppo, secondo la parola di Dio, questa pace senza l'aspetto della violenza arriverà a livello mondiale, ma essa sarà stabilita da un uomo malvagio per fare guerra in seguito a ciò che è giusto, e dato che il credente ha accorto questo, lo sa, non si stupisce ora di questa esaltata frenesia per la sola pace e con pazienza attende la vera pace che è Gesù Cristo. Questione di tempo. Giugno 2007. Contributo. Amare in condizioni difficili. - G. B. U. Donald A. Carson, Ellero,